Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio, ultima puntata della settimana. Abbiamo già toccato l'argomento venerdì scorso, per la verità da almeno un anno e mezzo lo tocchiamo tutti i mesi. Per il sistema del risparmio gestito la crisi si acuisce di mese in mese. Ad ottobre, pensate, la fuga dai fondi comuni di investimento italiani è stata calcolata in 22,9 miliardi di euro, il dato peggiore di sempre. Da inizio anno il deficit del sistema ammonta a 114 milioni di euro. Una crisi talmente profonda che l'associazione che rappresenta le società di gestione è pronta a lanciare la campagna Le 5 ragioni per avere fondi comuni anche durante le crisi finanziarie. Notizia che abbiamo appreso, per la verità, proprio poco fa e che del tutto in maniera casuale si intreccia anche con la storia di copertina che domani Plus 24 del Sole 24 Ore presenta ai propri lettori. Ne parleremo con i colleghi del Sole 24 Ore, Isabella Della Valle, Vitaliano D'Angerio, e poi dalle 12:30 Pietro Giuliani, amministratore delegato di Azimut, la società di gestione indipendente del nostro paese, oltre che vicepresidente di Assogestioni. Ovviamente, come sempre, ci piacerebbe discutere di questo argomento con voi all'800 24 00 24. Avete tante volte raccontato ai microfoni di Radio 24 le motivazioni che vi hanno indotto a liquidare un fondo di investimento per magari scegliere in questo momento o addirittura di mantenere i soldi sul conto corrente o comunque altri strumenti di investimento e di risparmio. Tornate a raccontarcelo per commentare anche le nuove tendenze, se ce ne sono, visto che questa crisi non ha nessuna intenzione di arrestarsi. Per i vostri messaggi invece il numero è il 349-238-6666. La borsa questa mattina ha una tendenza piuttosto positiva, lo abbiamo detto nel giornale radio. Ieri Wall Street ha chiuso dopo aver toccato i minimi di ottobre con un balzo sul finale di quasi 7 punti percentuali, sia sullo Standard & Poor's che sul Nasdaq che sul Dow Jones. E stamattina l'Europa risponde altrettanto bene, non con delle prestazioni così vistose. Comunque abbiamo dei rialzi di 3,5 punti a Londra, più 3,81 a Francoforte, Parigi più 2,50, Milano più 2,60% sull'S&P. Stamattina stanno andando molto bene i titoli del settore petrolifero, i titoli difensivi. Eni più 5,21, nonostante il petrolio sia in discesa piuttosto forte da molte giornate a questa parte. Tenaris più 4,53, Impregilo più 4,30, Saipem più 3,85, Telecom più 3,70, Seat più 3,35, rialzi di circa 3 punti anche su Enel e Prismian. Abbiamo invece una bruttissima giornata per Bulgari, che sta perdendo il 6,46%. Atlantia ex autostrade meno 3,74, la Popolare di Milano meno 0,23, questi sono gli unici titoli negativi in questo momento a Piazza Affari. C'è una buona tendenza per Fiat, lo abbiamo già detto, abbiamo i dati sulle immatricolazioni europei, Lingotto guadagna il 2,48%, un mercato che si conferma in forte difficoltà, ma anche questa non è una novità. Abbiamo poi il dato sul prodotto interno lordo italiano, anche per quello che riguarda l'Italia abbiamo la conferma della recessione tecnica, un dato piuttosto negativo. Per il terzo trimestre c'è un meno 0,5% rispetto al trimestre precedente e abbiamo un meno 0,9% rispetto ad un anno fa. Tutto questo ovviamente sarà commentato ampiamente nel GR Extra Large stasera a Focus Economia. Noi invece lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina, torniamo sulla crisi profonda che investe i fondi comuni di investimento italiani. L'esigenza di liquidità da parte dei risparmiatori e l'andamento altalenante dei mercati infliggono un nuovo duro colpo al settore del risparmio gestito. A fine ottobre, il mese più nero della storia delle borse, i fondi comuni italiani hanno registrato deflussi record pari a 23 miliardi di euro, che portano il bilancio da inizio anno in rosso per 120 miliardi. Una cifra già superiore al doppio dei 53 miliardi persi dal sistema nell'intero 2007 e che impatta pesantemente sul patrimonio del settore, sceso a quota 436 miliardi. La categoria più colpita dai riscatti è stata quella dei fondi obbligazionari, con un'emorragia pari a 12 miliardi, che porta il rosso dei bond da inizio anno a oltre 56 miliardi, circa la metà del rosso complessivo della raccolta. Più che raddoppiati, invece, rispetto a settembre, i riscatti sugli hedge a 1,4 miliardi, mentre gli azionari perdono 1,9 miliardi e i fondi di liquidità 2,7 miliardi. Le turbulenze finanziarie degli ultimi tempi, però, non hanno fatto che peggiorare una crisi, quella del risparmio gestito, in atto ormai da almeno 4 anni. E le ragioni sono sempre le stesse. Sul settore pesa il perenne conflitto di interesse tra chi costruisce e gestisce il fondo di investimento, la SGR, e chi il fondo di investimento lo deve vendere, cioè le banche, che preferiscono offrire al risparmiatore prodotti come obbligazioni strutturate o polizze per esse più redditizi. Tra le altre cause, incidono anche i costi di gestione spesso elevati, se confrontati con i rendimenti offerti. Una cosa però sembra certa. Il settore, oggi più che mai, ha bisogno di una riforma, intesa soprattutto come una maggiore autonomia delle società di gestione del risparmio. Ed è proprio su questo fattore che ha puntato più volte il dito nei mesi scorsi il governatore di Banca Italia Mario Draghi, promettendo nuove regole per risollevare il sistema. Regole che al momento non sono ancora arrivate, ma che sono quanto mai necessarie per evitare il collasso del settore. Lo abbiamo precisato nella scheda, quello che io erroneamente avevo indicato come il deficit del sistema da inizio anno, magari fossero stati 114 milioni di euro, purtroppo sono 114 miliardi. Buongiorno Isabella Della Valle, il Sole 24 Ore. Buongiorno a tutti. L'Italiano sta leggendo le bozze di ieri sera del giornale, ma ormai Plus è andato in stampa e lo troveremo in edicola domani mattina. Allora, dobbiamo subito sgombrare il campo da quello che molti ascoltatori potranno ipotizzare possa essere in realtà non una circostanza fortuita, come invece vi giuriamo assolutamente è, perché stamattina Sogestioni ha comunicato il lancio di una campagna che partirà la prossima settimana e che si chiama Le 5 ragioni per avere fondi comuni anche durante le crisi finanziarie. Il numero 5 campeggerà anche domani su Plus 24, ma non saranno queste ragioni, in realtà sono le ricette individuate per credere ancora nel sistema che è in crisi pesantissima. Isabella Della Valle. Dunque noi abbiamo cercato appunto di trovare dei punti che possono in qualche maniera giustificare il rilancio, diciamo, di questi prodotti. Non si tratta di grandi soluzioni. D'altronde, se non riesce a trovarle neanche Draghi con tutti i diretti interessati, cioè possiamo fare ben poco anche noi. Esatto, no, si tratta semplicemente di soluzioni che sono abbastanza concrete, insomma, che possono avere un impatto diretto soprattutto proprio sul risparmiatore, quindi che per lui siano facilmente comprensibili. Per esempio, si tocca un aspetto importante che è quello di una maggior semplificazione anche di questi prodotti. Adesso le categorie sono più di 40, quindi è abbastanza complicato già riuscire a capire tutte queste suddivisioni che, insomma, rischiano di creare un po' di confusione. Poi appunto anche una maggiore trasparenza per quanto riguarda le commissioni di questi prodotti. Insomma, chi si compra un fondo ha anche il diritto di capire per quale ragione spende i suoi soldi. Altre proposte che vengono fatte, una delle 5 proposte è quella anche di suddividere in classi le commissioni dei fondi, proprio con delle commissioni differenti, se andasse in porto l'idea di mettere tutti i prodotti su delle piattaforme, creando così una vetrina sulla quale il risparmiatore può accedere direttamente. Se decide di avvalersi della consulenza, pagherà quella che è la commissione standard, perché appunto è giusto retribuire la consulenza che gli viene data. Ma nel caso decidesse di acquistare direttamente il suo prodotto, perché sa che vuole quel determinato prodotto, potrebbe essere un'idea quella magari di pagare un pochino di meno. Ecco, insomma, l'idea è quella di cercare di dare un po' una mano a livello concreto. Infatti, no, tra l'altro, a parte queste ricette di Plus e quelle poi di Assogestioni questa mattina, visto che l'ho citato, il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che nel Forex di Bari dello scorso gennaio aveva proprio lanciato questo tavolo con tutti gli attori del sistema per individuare le ricette per uscire dalla crisi che è in corso da un bel po' di tempo, da quasi 2 anni. Che fine ha fatto la ricetta Draghi, Italiano? Ma io, da quello che mi risulta, ci sono questi tavoli aperti a Roma dove periodicamente la Assogestioni, Consob, Banca Italia e le principali, appunto, SGR, si incontrano per discutere. Sviluppi, a quanto ne so, non ve ne sono stati di concreti. Si sta parlando, si sta discutendo, però poi dopo provvedimenti che costringano gli SGR, i gestori, a comportarsi in un certo modo, a che io sappia, non ve ne sono. Certo, c'è la MiFID, che ha stravolto, rivoluzionato quello che è il sistema di consulenza, non si pagano più le doppie commissioni sulla gestione patrimoniale, tutta una serie di fattori che sono stati inseriti appunto con la direttiva europea dei mercati finanziari. Sviluppi dei tavoli che io sappia non ce ne sono ancora. Anche perché diciamo il sistema, oltre a tutti i problemi che aveva, è stato anche travolto dalla crisi, e questo abbia contribuito anche ad accelerare la profonda, Isabella, uscita dai fondi di ottobre. Questo peggior risultato di sempre, 23 miliardi di euro di riscatti da parte dei risparmiatori italiani dal sistema fondi, da che cosa è stato motivato? Perché una cifra così drammaticamente preoccupante? Ma guarda, l'aspetto curioso del dato di ottobre è il fatto che, nonostante i mercati finanziari, e parlo di borse, siano scese molto, in realtà i grandi deflussi si sono visti poi in definitiva sui prodotti obbligazionari, che, come appunto si diceva nella scheda, hanno perso 12 miliardi di euro, che è una cifra enorme, mentre invece gli azionari tutto sommato hanno contenuto le perdite a poco meno di 2 miliardi. C'è una crisi di fiducia di fondo, insomma, una crisi strutturale che, come dicevi tu, va avanti da 2 anni. Il fatto che ci sia stata questa grande fuoriuscita dagli obbligazionari è anche determinata da un altro fattore. Non dimentichiamoci gli scandali finanziari che hanno colpito il settore finanziario mondiale. C'è stato anche molto timore da parte dei sottoscrittori che all'interno dei prodotti che avevano acquistato probabilmente ci fossero titoli tra virgolette tossici. Oggi sentiamo parlare di questi titoli quotidianamente su tutti i giornali. Va detto che il sistema dei fondi comuni anche durante questa crisi è tutto sommato uscito immune, perché da un'indagine che è stata fatta è emerso che veramente il quantitativo di titoli tipo Lehman all'interno dei portafogli dei fondi era veramente irrisorio. Nell'ambito della massima diversificazione sono quote considerate assolutamente per un fondo fisiologico e ragionevole italiano. Sono la diversificazione massima, ma oltre a questa paura, timore non giustificata appunto dai dati, ce n'è un altro di motivo per cui gli obbligazionari hanno perso così tanto, è perché le banche fondamentalmente non li spingono più allo sportello, perché preferiscono, a quello che si sa, ma l'hanno detto anche i vertici delle autorità di vigilanza, le banche preferiscono fare collocare raccolta diretta con altro, attraverso obbligazioni emesse da loro, e quindi anche questo è uno dei motivi per cui i fondi obbligazionari hanno raccolto così poco. E parliamoci anche chiaramente, adesso lo fanno anche grazie al fatto che c'è lo sponsor indiretto del governo a protezione di questi strumenti, per cui anche a volte passa questo messaggio distorto nei confronti della clientela. Magari questo è un tema sul quale torneremo con Pietro Giuliani più tardi, però vedo già molti ascoltatori pronti a dirci la loro su questo argomento. Cominciamo con Anna da Pordenone, una donna oggi. Anna, buongiorno, benvenuta a Salvadanaio. Sì, buongiorno, grazie signora per avermi chiamato. Niente, dico la mia esperienza. Io avevo una SGR aperta ancora nell'ottobre del 99, per fortuna l'ho chiusa nel dicembre del 2007, però l'ho chiusa con lo stesso importo che io ho consegnato 8 anni prima. Mi sono lamentata e mi hanno risposto offesi che loro hanno agito secondo il mandato che io avevo dato a loro. Si badi bene che la gestione si chiamava crescita. Niente, dopo volevo dire altre cose. Sì, d'accordo, c'è la fuga dei fondi, e le persone che vanno in banca, che cosa consigliano le banche? Consigliano le unit e le index linked. Sì, infatti. Il problema è che i risparmiatori in fuga dai fondi rischiano di peggiorare la loro situazione, perché sia le polizze finanziarie sia le obbligazioni strutturate sono spesso più costose. Certo, Anna. Rendono di più alla banca e meno ecco, alla persona. Lei però è estremamente consapevole di questa, non chiamiamolo problema, di questa differenza, no, di finalità e di caratteristiche dei prodotti che si sottoscrivono per gestire al meglio il proprio investimento, perché poi ovviamente uno cerca anche il prodotto che fa al caso suo, però non per tutti è così. Lei che cosa fa? Insomma, anche come si documenta sul prodotto che sceglie per investire il suo denaro, Anna? Guardi, purtroppo ho un brutto vizio e dico che ho un basso livello di cultura finanziaria. Beh, non ci sembrava proprio, Anna. Che si registra in molti, molti risparmiatori italiani. Ecco, io sento dire spesso che l'etica, la deontologia della banca, però insomma, quando una persona che non ha preparazione finanziaria va alla banca e gli propongono queste cose, in buona fede anche le accetta. Cioè ha fiducia nella persona che gli sta di fronte. Infatti. Pensa sempre che la persona che sta di fronte, essendo laureata, sia più meglio di lei, no? Anna, grazie. Ha terminato il suo intervento? Sì, dopo volevo dire anche la questione fisco per quanto riguarda i prodotti italiani e stranieri. Il fisco impone ai fondi italiani l'aliquota sul rendimento maturato. Sì. Mentre quegli esteri pagano le tasse solo quando vende le quote. La disparità fiscale, anche questo è un tema sicuramente al centro dell'attenzione del famoso tavolo Draghi con tutti l'italiano. Sì, sì. No, volevo dire due cose. Una, anche per la signora a questo punto, se le interessa, nel numero di domani inseriremo anche una email che, colgo l'occasione di dirla, è risparmiogestito.plus24@ilsole24ore.com, a cui le i radioascoltatori potranno inviare email in cui chiedono chiarimenti sui prodotti, eccetera. Per quanto riguarda il fisco, cioè, a questo punto la signora è più che ha espresso esattamente le cose come stanno. Sì, esatto. Di fatto il 12,5 sul maturato per quanto riguarda gli italiani è surrealizzato per gli esteri. Infatti quello che chiede a suggestione è di parificare questa fiscalità per i fondi, evitando questa disparità che a volte porta, come dire, a un problema ottico quasi, cioè vedi delle performance che sembrano quelle degli esteri più alte, migliori degli italiani. Di però, fatto non lo è perché la fiscalità grava in misura diversa. Sì, Berto dalla provincia di Imperia, benvenuto. Buongiorno. Vuole scappare dalle società di gestione lei, perché? Sì, guardi, io non voglio scappare dalle società di gestione, però non sono assolutamente contento, in quanto ho dei fondi lussemburghesi, no? I quali, dato che perdevo parecchio, ho deciso di spostarmi, di fare uno switch sul monetario, e ultimamente ho ricomprato i stessi fondi, mi hanno fatto ripagare la provvigione del 4%, insomma io l'avevo già pagata la provvigione, non mi sembra giusto pagare un'altra volta solo facendo degli switch. Sì, Isabella, la vedo con la faccia corrucciata, sì. Isabella Della Valle, perché non capisce. No, non ho capito se lei ha pagato la commissione per passare da un fondo all'altro, sì, e poi l'ha ripagato un'altra volta. Berto. Fondi azionari, ho pagato la provvigione del 4%. Cioè la commissione di gestione. La commissione di gestione. Poi la commissione di gestione sul fondo azionario, che già, sì, infatti già balzano sulla sedia. Ci credo che vuole scappare da questa società, perché credo che il costo rispetto anche ai rendimenti di un fondazionario, anche il più bravo in questo momento. Io non vorrei scappare, difatti ci sono tuttora. Però mi sono solo spostato in attesa di tempi migliori. Dico, adesso sono scesi abbastanza i miei fondi. Io ho il fondo Cina, ho l'Asia, ho l'America Latina che stanno perdendo tantissimo. Per cui dico, adesso sono scesi, è il momento di ricomprarli. No, mi hanno fatto ripagare il 4%. Disonesti. Berto, tra l'altro una società che si comporta così è una società, noi lo diciamo spesso, insomma, che se nella media di mercato fa spendere molto di più si colloca già automaticamente fuori mercato, ma ancora esistono comunque società che fanno pagare dei costi assolutamente irragionevoli. Quant'è un costo corretto per un fondo, non lo so, cioè però un 4% per una commissione di gestione? Altissimo. Ma poi dipende anche dal... c'è un problema, adesso non voglio difendere questa società, però c'è un problema, che questa fuoriuscita di capitali dai fondi fa calare il patrimonio dell'SGR. Questo incide sul TER, sul totale delle commissioni, perché più si abbassa il patrimonio di un fondo, più aumentano i costi, per una questione appunto di percentuali. E quindi forse anche questo è il motivo per cui, non lo so, però in effetti 4% è alto, ma siamo nell'ordine del 2% per quanto riguarda quindi il doppio. Quindi bisognerebbe vedere, anzi saremo molto curiosi di sapere qual è la SGR appunto, che pratica delle commissioni così elevate. Eccoci di nuovo a Salvadanaio questa mattina per tornare a commentare le tendenze del risparmio gestito in Italia alla luce del dato pesantissimo di ottobre. Dai fondi di investimento italiani sono fuoriuscite risorse per quasi 23 miliardi di euro da inizio anno. Il deficit del sistema, dicevamo prima, ammonta a 114 miliardi di euro, quindi una crisi sempre più pesante, che ha portato anche l'associazione di categoria a lanciare una campagna che partirà lunedì prossimo. Si chiama 5 buone ragioni per avere i fondi comuni anche durante le crisi finanziarie, e abbiamo ben spiegato anche in apertura di programma che questa iniziativa, di cui abbiamo conosciuto le modalità e la dinamica proprio questa mattina, del tutto casualmente assomiglia un po' anche alla storia di copertina di domani di Plus 24 del Sole 24 ore, che invece, come ci spiegavano Isabella Della Valle e Vitaliano D'Angerio, lo stesso presenta una rosa di 5 proposte per così suggerire agli attori del sistema come poter orientare i risparmiatori verso comunque risparmio gestito in una fase come questa e come uscire dalla crisi. Abbiamo spiegato appunto i termini generali di queste proposte con i colleghi, adesso però andiamo al vicepresidente di Assogestioni, Pietro Giuliani, che è anche amministratore delegato di Azimut. Giuliani, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a tutti, grazie. Ci spieghi lei allora queste 5 buone ragioni per avere i fondi comuni anche durante le crisi finanziarie. Prima però dei termini della vostra campagna, mi piacerebbe capire, Giuliani, come mai vi siete alzati questa mattina dopo che, insomma, il sistema è in crisi da 2 anni? Perché adesso partite con questa campagna? Non è un po' tardi? Come al solito non è che ci siamo proprio stati questa mattina. No, tra l'altro, siccome vi siete anche, come dire, vi state vedendo anche col governatore della Banca d'Italia, con Draghi, da diversi mesi, ancora non abbiamo capito questo tavolo di studio per le soluzioni della crisi che piega sta prendendo, ci piacerebbe anche che ci raccontasse se avete qualche novità in questo senso. Io devo dire che non sono in questo momento particolarmente preparato a parlare a nome di Assogestioni, penso che pur essendo vicepresidente di Assogestioni e partecipando a tutti i comitati esecutivi e comitati direttivi, come sapete poi l'associazione è portata avanti, è diretta nel day by day da sicuramente il presidente, il professor Messori, e poi dal direttore generale Fabio Galli. Quindi secondo me questa tipologia di domande loro sono più in grado di rispondere. Io posso dare una risposta molto più generica e generale domande del tipo perché pensiamo che queste 5 ragioni siano 5 buone ragioni, se poi ce n'è qualcuna in particolare sulla quale preferite che dissertiamo per non... I cinque motivi che la categoria propone, che la categoria appunto individua, sono autonomia, controllo, diversificazione, trasparenza e solidità. Autonomia perché il patrimonio dei fondi è separato da quello della società che li gestisce. Il controllo perché Banca d'Italia e Consob vigilano sul rispetto delle regole a tutela dei risparmiatori. I fondi sono diversificati, sono trasparenti perché i risparmiatori sanno quanto valgono e come sono gestiti. La solidità, grazie alle loro caratteristiche, dice Assogestioni, i fondi hanno sempre aiutato i risparmiatori a superare i momenti difficili nei mercati finanziari. Eppure di tutto questo, a quanto pare, gli risparmiatori italiani sono del tutto inconsapevoli. Giuliani, come mai? Lo sono perché principalmente loro vengono in contatto con l'industria del risparmio gestito tramite reti distributive che, diciamo, per oltre il 90% sono reti distributive bancarie, e quindi in qualche modo l'industria entra in contatto con il risparmiatore in maniera, diciamo, subordinata a quello che poi è un interesse più importante, che è quello della banca, che è, oltre ad azionista del 90% dell'industria, anche distributore di oltre il 90%. E quindi di fatto la banca, mi immagino che spiega anche il risparmio gestito in questo momento in subordine rispetto ad altri prodotti che interessano di più, e più in generale comunque ha anche un core business più importante sul quale si impegna di più. Il risparmio gestito andava molto di moda una decina d'anni fa, quando era diventata un po' una sorta di pietra filosofale in cui si passava dal dossier titoli al fondo comune di investimento, sempre su titoli principalmente obbligazionari, semplicemente guadagnando un po' di più e approfittando della discesa dei tassi si riusciva a dare l'illusione ottica al cliente che si guadagnasse di più tramite il fondo comune rispetto al dossier amministrato. Ovviamente era sostanzialmente la stessa cosa, quindi l'industria è nata un po' in Italia su questo equivoco. Diciamo che non si è evoluta molto da questa nascita fortunata, ovviamente adesso si stanno pagando le conseguenze di un qualche cosa che non è mai stato fatto evolvere. E qui non do la colpa a nessuno, sicuramente non la do alle autorità di controllo che credo che normalmente fanno bene il loro mestiere, la do principalmente agli attori del mercato che in qualche modo si sono seduti sugli allori e quindi non sono riusciti a prepararsi poi a momenti difficili come questo. Ecco, tra l'altro mi stavo chiedendo anche, visto che a questo punto di tutti questi temi noi discutiamo ormai da 1 anno e mezzo, 2 anni, Giuliani, avete l'impressione, visto che la crisi non è per finire e visto che andiamo incontro ad un 2009 che sarà l'insegna della recessione globale che investirà completamente anche noi, mi chiedo, visto che la situazione è questa, abbiamo toccato il fondo per quello che riguarda i disinvestimenti oppure ancora dobbiamo vederne delle belle? Qual è la vostra sensazione? Allora, la sensazione io l'avevo data proprio in occasione del forum che si fa a fine anno per prevedere l'anno prossimo lì al Sole 24 Ore lo scorso dicembre, dove avevo detto, e all'epoca ero stato un po' visto come una Cassandra, che il settore almeno per i successivi 18 mesi, ed oggi ne sono passati sì e no 12, avrebbe perso probabilmente un 20-30% sullo stock, e questo di fatto è quello che si sta verificando, sì. Gliene danno atto Vitaliano D'Angeli e Isabella Della Valle, che l'avevano ascoltata in quella circostanza, sì. È vero, eravamo lì, c'eravamo anche noi, sì. Eravamo insieme, e quindi lì ho parlato di 18 mesi e avevo tutte le remore nel far per primo la Cassandra. Oggi sicuramente mi sento di confermare 18 mesi, quindi direi che per i prossimi 6 mesi andrà ancora avanti così. Probabilmente magari due anche un po' di più, perché la sberla che c'è stata sui mercati finanziari è stata talmente forte per cui l'inerzia sarà maggiore. Non vedo le banche messe nel breve in una condizione di cambiare politica e di cominciare a riportare di nuovo i propri clienti sui fondi. Credo che continueranno a vendere polizze, sì. Assolutamente. Diciamo che però, sì, per non dare proprio un'immagine di disastro anche prospettica, così come l'altro anno ha fatto la Cassandra, magari adesso mi piacerebbe provare a dire un qualche ridimensionare po'. Un po'. Che ripeto, no, ma guardi, io non so se purtroppo, anche perché con le parole poi i fatti non si riescono a cambiare più di tanto, quindi io credo che continuerà questa emorragia e sarà molto pesante, sia perché, ripeto, non c'è un volere di farla cambiare da domani, sia perché poi non ci sono le condizioni. Io penso che l'industria potrebbe ridursi notevolmente di dimensione nei prossimi ulteriori 12-18 mesi, questo accompagnata o non da una crisi severa dei mercati. Quello che però penso è che poi alla fine la parte dell'industria che riuscirà a sopravvivere sarà poi di nuovo il seme sul quale si ripianterà tutta la costruzione di ricchezza che le banche stesse e le più lungimiranti lo stanno già facendo da oggi, un esempio a caso la Popolare di Vicenza che sta facendo questo discorso con noi, ma so che ci sono anche altri che comunque stanno pensando cose di questo tipo, alla fine ritorneranno al famoso margine da servizi, ad utilizzare il risparmio gestito, così come in tutti i paesi evoluti questa tipologia di servizio finanziario utilizzata. Quindi io credo che per i prossimi 12-18 mesi non ci sarà bel tempo, però poi dopo ritornerà. È chiaro che nei prossimi 12-18 mesi l'industria potrebbe cambiare di dimensione anche pesantemente, e di questo credo che faccia bene a prendersi la sua parte di colpa, perché un'industria che, come ha detto lei, negli ultimi 2 anni è stata affetta da grossa crisi, aveva delle problematiche strutturali e non ha cambiato nulla, l'unica cosa ci siamo messi a discutere con i regulator, però i regulator fanno il loro mestiere, cioè noi dovremmo fare il nostro, quindi se ci sono delle persone che non sono capaci a fare delle cose, in genere quelle persone dall'azionista vanno rimosse. Se c'è una struttura che non funziona, anche nell'interesse della struttura, la struttura si può cambiare, alla fine della fiera non si deve invocare l'indipendenza dall'azionista, perché l'indipendenza dall'azionista, se uno ha le idee chiare e è abituato a giocarsi fino in fondo le sue idee, anche con un azionista al 100% di tipo bancario, le può far valere. Ricordo che Azimut è nata da un 100% di azionariato Bipop ai periodi della New Economy, e quindi anche all'interno di quello noi comunque si riusciva a lavorare, diciamo, in maniera indipendente. C'è Vitaliano D'Angeli che le vuole fare una domanda, io però devo mandare i suggerimenti per chi è in viaggio. Devo salutare Isabella Della Valle perché ci lascia, che deve andare a completare un lavoro al giornale, e comunque di soluzioni, insomma, abbiamo capito che ne abbiamo tante, si tratta di capire quando potranno concretizzarsi per aiutare, insomma, a ritornare un po' a spingere il sistema, ovviamente anche soddisfazione della clientela permettendo. Ancora 7-8 minuti di tempo prima della chiusura di Salvadanaio per commentare di nuovo le ragioni della crisi molto forte dell'industria del risparmio gestito, dopo i dati di ottobre pesantissimi, anche la campagna che Assogestioni lancia a partire da lunedì prossimo per così un po' in qualche maniera incentivare il ritorno verso il sistema dei fondi di investimento, nonostante le perplessità di tutti i risparmiatori. E poi abbiamo anche anticipato i contenuti di domani di Plus 24. Con noi ancora Vitaliano D'Angerio e Pietro Giuliani, amministratore delegato di Azimut. Vitaliano, rapidamente volevi fare una domanda a Pietro Giuliani. Rapidamente volevo chiedere al dottor Giuliani se era d'accordo sul mettere nero sul bianco qualora il gestore investa o meno nel fondo che, di cui è responsabile, in modo tale da dare un messaggio di fiducia a chi lo compra. So che il gestore investe anche lui in quel fondo, in questo modo più fiducia a metterci i miei soldi. Giuliani, potrebbe essere un altro motivo che potrebbe ricondurre verso un ripristino della fiducia intorno a questo strumento di investimento? Sono assolutamente d'accordo, e non solo sono d'accordo a parole, come al solito da noi in Azimut questa è una tradizione, nel senso che io personalmente tutti quanti i soldi sono investiti tramite fondi comuni di Azimut, i gestori lo fanno e lo fanno in maniera molto importante, in particolare sui fondi che loro gestiscono. È ovviamente la miglior garanzia che si può dare al cliente del fatto che uno fa le cose non in conflitto di interesse e al massimo delle sue possibilità, e poi che crede in quello che fa. Quindi insomma, magari un investitore che ha adesso il desiderio di puntare su uno strumento di questo tipo magari potrebbe valutare, se la società si comporta in questo modo, questo significa che insomma è un buon fondo che magari mi potrà dare anche delle garanzie in futuro. Allora, Sergio da Cremona, che ci aspetta da un po', benvenuto a Salva Danaio. Benvenuta a lei. E senta, complimenti innanzitutto per la trasmissione che io seguo sempre. Grazie Sergio. Ho premesso, la mia domanda è questa: io ho 4 nipoti e sto versando mensilmente una cifra su dei fondi che sono bilanciati, e quindi di conseguenza con un po' di azioni dentro, insomma dal 20-30%. E volevo sapere se magari in questo frangente vale la pena interrompere, o seppure, come ho letto ieri anche sulla stampa, i PAC sono l'unico strumento in questo momento, però volevo la conferma anche da parte vostra, dei vostri esperti. Sergio, io immagino che lei abbia data la voce, non so se sono nipotini come zio, come nonno, deduco che se lei ha così a cuore il futuro di questi bambini, forse è più nonno, avrà davanti a sé un lungo periodo per investire in questi prodotti, no? Visto che sono destinati al futuro dei suoi nipotini. Io, 8 anni, no, praticamente i bambini hanno 14, no, 13, insomma da quando sono nati io ho cominciato a versare su questo fondo e su questi fondi, perché ce n'è uno per ogni tipo, vabbè io non so. No, però dire. Insomma il tema è capire se è la strategia giusta e soprattutto cosa fare in un momento come questo, in cui naturalmente Sergio, come tutti noi, si sarà spaventato e non poco. Prima sento Vitaliano, poi Pietro Giuliani. Sì, no, il PAC è il modo migliore per investire, soprattutto in questo momento, perché in questo momento con la stessa cifra si comprano molte più quote di fondi, di azioni, quindi sottostanti, di obbligazioni, e anzi il PAC in questo momento è il modo migliore per investire. Conoscendo un po', mi passi il termine, la spregiudicatezza di Pietro Giuliani, io credo che magari a Sergio suggerirà anche di entrare prepotentemente nel mercato azionario adesso, però insomma pensiamo anche al tipo di obiettivo che Sergio ha, che è quello di evidentemente mettere da parte denaro per i propri nipoti e ovviamente conservarlo al meglio, non tanto avere delle posizioni spregiudicate appunto intorno a questo investimento. Giuliani. Allora, con questa premessa... con questa premessa ci mi ha ammazzato, allora non ho nessuna... No, naturalmente no. È chiaro che era uno scherzo, insomma. Sì, naturalmente, no, ma tra l'altro è anche vero. Allora, io penso che assolutamente vale la pena di tranquillizzare il nostro radioascoltatore, perché il piano d'accumulo è sicuramente in questo momento e in generale un ottimo modo per approcciare al mercato azionario, quindi assolutamente non sospenderlo in un momento come questo, ma andare avanti tranquillamente, dopodiché... Se in un momento come questo ci fosse del risparmio in eccesso e non si sapesse dove metterlo, si può pensare di fare degli investimenti lo stesso, sempre in fondi bilanciati, perché è un momento in cui le azioni in generale vengono vendute abbastanza poco. Quindi a questo riguardo, se si è ben seguiti, vale la pena di rivolgersi a chi vi sta seguendo nei vostri investimenti e andare avanti in questa direzione. Quindi questi sono insomma gli orientamenti che, a parte il fatto che da questo microfono li fa Pietro Giuliani piuttosto che Vitaliano, comunque credo che sia un po' l'orientamento generale, sì. Quello di cercare di far capire che è inutile scappare adesso dal mercato, perché ormai insomma non dico che abbiamo toccato il fondo, forse ancora dobbiamo toccare, ma le perdite, ricominceremo a partire prima o poi. Le perdite sono state già a questo punto. Il mercato, anche, voglio dire, la recessione in arrivo la sta digerendo proprio in questo periodo, peraltro. Andrea, dalla provincia di Pavia, rapidissimo perché abbiamo pochi minuti, però questo è un tema che volevo toccare con lei. Si è fatto rimborsare da una società di gestione? Sì. Che cosa? Sì, certo, mi sono fatto rimborsare 1,98 euro di spese giornaliere più 46 centesimi per ogni foglio che mi mandavano, per una somma complessiva di? Ho preso tutte le trimestrali dal 2005 a oggi, ho fatto i confronti con il benchmark, ogni qualvolta loro non rispettavano, andavano sotto il benchmark, ho chiesto rimborso, sono riuscito ad avere il rimborso delle spese del 70%. Giustamente la gente scappa dai fondi, però anche i fondi devono fare loro, quindi devono fare un buon lavoro. Io capisco che adesso il momento è negativo, però andare anche sotto il benchmark, io ho contestato solo che siano andati sotto in benchmark, non che siano andati in negativo. In negativo, ok, il benchmark era negativo, va bene, però se tu fai peggio del benchmark, mi dispiace, non hai lavorato bene. Andrea, sì, chiudiamo con questo, con Vitaliano D'Angerio, perché Salvadanaio è terminato, qua c'è scappato di mano letteralmente questa mattina Vitaliano. C'era anche la questione dei costi, forse, che tu volevi Volevo segnalare una cosa, sì, c'è questo vezzo, per usare un eufemismo, di alcune società di gestione di prelevare commissioni di performance, di incentivo cosiddette, anche quando il fondo va male, cioè senza il negativo. Va bene che si batte in benchmark, ma quando lo si batte in modo negativo, cioè forse sarebbe cosa di buon gusto evitare di prelevare le commissioni di performance. Giuliani, vuole dire qualcosa anche lei su questo punto che mi sembra molto delicato per il vostro lavoro? Allora, io sono molto d'accordo con Vitaliano D'Angerio sul fatto che normalmente rispetto a commissioni di performance negative, quindi a performance negative non ci dovrebbero essere commissioni di performance, però bisogna anche dire che se si è cambiato il regolamento in altro modo prevedendo questa cosa, poi dopo alla fine non si può sempre bastonare da una parte. Quindi, in sintesi, noi come Azimo non prendiamo commissioni di performance laddove le performance sono negative, questo qui né nelle nostre società. E mi pare che sopravviviate abbastanza più o meno serenamente, se si può vivere serenamente in una fase come questa. No, l'ultima cosa, anche se rubo qualche secondo, volevo precisare rispetto ad un ascoltatore che all'inizio ci aveva parlato di uno switch che aveva fatto nell'ambito di un fondo e la SGR gli aveva applicato una commissione del 4%, cioè che ci dice non avete capito niente perché il cliente ha pagato la commissione di ingresso in un fondo nuovo dopo aver lasciato il vecchio. Non ci sembra che la situazione fosse questa, c'è stato proprio uno switch, quindi un passaggio da un comparto ad un altro. 4% per cui è del tutto immotivato. Esatto, grazie a Vitaliano D'Angerio e Pietro Giuliani. Noi ci sentiamo stasera a Focus Economia, purtroppo vi tocca anche oggi. La Deborah Rosciani, buona giornata.